Due parole su Redacta, che è il sindacato di chi lavora con i libri. Facciamo parte di ACTA, siamo una sezione di ACTA, l'associazione dei freelance, e siamo nati nel 2019 proprio con l'esigenza di fare ordine fra le poche informazioni che c'erano sul settore editoriale e soprattutto sulle condizioni di lavoro di appunto chi ci lavora. Da lì appunto abbiamo fatto tante cose, tra queste un lavoro sui compensi dignitosi che vede la luce appunto in queste settimane. È un lavoro per noi importante perché è, come dire, uno strumento pratico che vogliamo offrire a lavoratori e lavoratrici che non hanno magari dei riferimenti così netti su appunto quali sono le condizioni di chi lavora. In particolare appunto abbiamo fatto questo progetto nel corso degli ultimi 2 anni, che ha coinvolto un gruppo di freelance e dipendenti che ha in qualche modo studiato le principali prestazioni che ci troviamo a svolgere come lavoratrici e lavoratori freelance, stabilendo quanto è giusto farsi pagare, quindi sia il contenuto delle prestazioni sia quanto devono essere pagate, perché ci siamo accorti che dietro alla, diciamo, alla vaghezza, all'ambiguità dei nomi di che cos'è una bozza, che cos'è un editing, spesso si nascondeva anche lì lo sfruttamento. C'è stato anche un sondaggio, un'inchiesta che avete fatto con i lavoratori e le lavoratrici del settore. Esatto, sì, è la seconda inchiesta che ha fatto Redacta. La prima appunto l'abbiamo fatta col Nascere nel 2019, la seconda l'abbiamo fatta l'anno scorso, perché per appunto poter formulare delle proposte il primo passo è conoscere le condizioni di lavoro. Quindi a questo secondo sondaggio hanno risposto più di 800 persone e abbiamo pubblicato sul nostro sito delle slide diciamo che in qualche modo sono riepilogative dei punti salienti, ma presto pubblicheremo anche un report completo con tutti i dati che abbiamo raccolto, ed è proprio da questo, da alcuni dati insomma abbastanza scioccanti che abbiamo registrato, che ci sembra utile, oltre a fare inchiesta, produrre degli strumenti che possono appunto in qualche modo essere propositivi per chi vuole cambiare la situazione. Ti chiedo se in questo settore non ci sono dei minimi, cioè c'è un vuoto normativo sui compensi? Sì, diciamo che è un settore con un alto livello di esternalizzazione, per cui di fatto i dipendenti che sono protetti dai contratti collettivi nazionali sono pochi. Noi altri che siamo esterni, che siamo freelance e a diverso, tra l'altro con diversi tipi di inquadramenti, cioè chi è partita IVA, chi invece magari lavora in ritenuta d'acconto, chi è cococò, semplicemente non c'è alcun riferimento, non c'è un minimo, non c'è una regola, per cui sostanzialmente nella maggior parte dei casi il cliente che contatta il lavoratore o la lavoratrice offre una tariffa che spesso questa persona prima non sa dire se è dignitosa e in secondo luogo non si sente nella condizione di poter contrattare, perché c'è anche questo aspetto. Invece questi nostri strumenti, sia appunto la guida ai compensi dignitosi e poi un altro strumento che lanceremo invece la prossima settimana, che di fatto è come una calcolatrice di preventivi, sono proprio volti a questo, a dire: il cliente ti chiama e per un lavoro ti offre 1.000 euro, tu fai i calcoli secondo insomma quello che i dati che abbiamo raccolto e quelli che abbiamo elaborato, e magari scopri che il compenso dignitoso sarebbe 3.000, magari non riesci a ottenerli subito, ma hai più informazioni di prima su quanto dovresti farti pagare. Ecco, e da lì può cominciare una contrattazione. Ecco, a proposito di contrattazione, il lavoro editoriale spesso, come dire, è un lavoro in cui la contrattazione si svolge in modo individuale, no? Non è come una fabbrica, sì, che tutti gli operai sono all'interno, quindi questo che rende anche più difficile, no, arrivare a capire, sì, se si percepisce un giusto compenso. Sì, è molto complicato e appunto essendo, diciamo, legato al singolo, ci sono diverse condizioni che ti permettono di sentirti di poter contrattare o meno, perché secondo i dati del nostro sondaggio solo il 19% di chi ha risposto contratta abitualmente, che è una cifra piuttosto bassa. Quindi diciamo per esempio chi ha un solo cliente, chi ha una dipendenza economica molto forte da un solo cliente, è meno incline a contrattare, perché ovviamente se perde quell'unica fonte di entrate poi deve ripartire da zero, mentre abbiamo notato che chi ha più clienti ha meno difficoltà. Però il fatto che la contrattazione appunto non avvenga collettivamente crea problemi, ma spesso non avviene anche proprio perché uno non sa quanto è lecito contrattare, della serie: se io chiedo troppo magari perdo quel lavoro e poi c'è qualcun altro che è disposto a farlo meno. Invece l'idea di offrire degli strumenti che creano in qualche modo un riferimento sotto il quale non sarebbe bene non scendere può essere il primo passo verso una contrattazione che si spera poi sarà collettiva a un certo punto. Ti chiedo di ricordare l'appuntamento di domani. Siamo al Chinotto alle 19 in via Sebastiano Serlio 25/2 e presentiamo la guida ai compensi dignitosi.